I piccoli Cotton stavano giocando nel cortile interno e inneggiarono alla comparsa di Davy con grida di contentezza. Pete, Tommy, Adolphus e Mirabel Cotton erano tutti soli. La mamma e le sorelle più grandi erano fuori. Dora aveva sperato che ci fosse anche Mirabel. Aveva temuto di trovarsi sola tra una quantità di maschi. Mirabel era cattiva quasi quanto un ragazzo e altrettanto chiassosa, agitata e scura, ma almeno portava le gonne. Siamo venuti per andare a pescare, annunciò Davy. Urrà! Inneggiarono i Cotton. Corsero subito via per procurarsi dei vermi, con Mirabel che capitanava la squadra brandendo una latta. Dora avrebbe voluto mettersi a terra e piangere. Oh, se soltanto quell'odioso Frank Bell non l'avesse mai baciata! Avrebbe potuto sfidare Davy e recarsi da sola alla scuola domenicale. Naturalmente non ardirono andare a pescare nello stagno, dove la gente che andava in chiesa avrebbe potuto vederli. Dovettero quindi ripiegare sul ruscello, nei boschi, dietro la casa dei Cotton. Ma il ruscello era pieno di trote, per cui se la passarono assai bene quel mattino, i Cotton e Davy almeno. Non essendo totalmente privo di prudenza, il ragazzo si era tolto gli stivali e gli indumenti e si era fatto prestare la tuta di Tommy Cotton. Così equipaggiato, paludi, acquitrini e sottobosco per lui non presentavano più alcun pericolo. Dora lasciava trapelare senza alcun ritegno la propria desolazione. Seguiva gli altri da una pozza d'acqua all'altra, stringendo convulsamente la Bibbia e il giornaletto trimestrale e pensando amareggiata alla sua amata classe di catechismo, dove in quel momento avrebbe potuto starsene beata di fronte a un maestro che adorava. Invece se ne stava in quel postaccio a rastrellare boschi, accodata a quei mezzo selvaggi dei Cotton, cercando di mantenere esenti i suoi stivaletti e il suo grazioso vestitino bianco da squarci e schizzi di fango. Mirabel le aveva offerto un grembiule in prestito, ma la bambina aveva sdegnosamente rifiutato. I ragazzi pescarono trote in quantità sufficiente per il pasto, come facevano tutte le domeniche. Nel giro di un'ora i trasgressori ebbero tutto il pesce che volevano e se ne ritornarono a casa con gran sollievo di Dora, che si sedette sulla stia dei polli in cortile, mentre gli altri giocavano rumorosamente a rincorrersi. Poi i ragazzi salirono tutti sul tetto del porcile a incidere le loro iniziali sull'assito. Il soffitto piatto del pollaio e il mucchio di paglia sottostante fornirono a Davy un'ulteriore ispirazione. Passarono un'indimenticabile mezz'ora ad arrampicarsi sul tetto e a tuffarsi di lì nella paglia con urla ferine. Ma anche i piaceri illeciti hanno termine. Quando il rombo delle ruote sul ponte della palude indicò che stava arrivando la gente dalla chiesa, Davy capì che era tempo di congedarsi. Si tolse la tuta di Tommy, si rimise i suoi vestiti e distolse gli occhi dal bottino di trote con un sospiro. Non aveva alcuna opportunità di portarselo a casa. E allora? Non è stato un gran divertimento? Domandò con aria di sfida mentre scendevano dalla collina attraverso i campi. Io non mi sono divertita affatto, negò decisa Dora. E credo neanche tu, in realtà, soggiunse con uno sprazzo di intuito che in lei non ci si sarebbe aspettati. E invece sì, protestò Davy in un tono un po' troppo alto per essere convincente. Non mi meraviglio che tu ti sia annoiata a startene seduta là come un mulo. Io non ho intenzione di far combutta con i Cotton, dichiarò altezzosamente Dora. Ah, i Cotton sono persone per bene, replicò Davy, e se la passano molto meglio di noi. Loro fanno tutto quel che gli aggrada e dicono tutto quel che gli pare davanti a chiunque. Adesso che ho fatto il primo passo, mi metterò anch'io a comportarmi nello stesso modo. Ci sono mucchi di cose che non avresti il coraggio di dire davanti a nessuno, affermò Dora. No, nemmeno una. Ce ne sono, invece. Avresti il coraggio? Domandò gravemente la bambina. Avresti davvero il coraggio di dire mondo gatto di fronte al pastore? Quella era davvero un'obiezione sconcertante. Davy non era preparato a un così concreto esempio di libertà di linguaggio, ma non c'era bisogno di essere coerenti con Dora. Certo che no, ammise con aria imbronciata. Mondogatto non è un'espressione sacra. Non nominerei mai un animale di fronte a un ministro della Chiesa. E se ci fossi costretto, insistette Dora. Direi mondo micino, meditò Devi. Io penso che sarebbe meglio signor mondo gatto, riflette Dora. Oh, proprio tu che pensi, ridacchiò Devi con scherno. Devi non si sentiva con la coscienza a posto, sebbene preferisse morire piuttosto che ammetterlo con Dora. Ora che l'eccitazione procurata da quell'atto delizioso che è marinare la scuola si era sopita, la coscienza cominciava a rimordergli in maniera salutare. Dopotutto, forse sarebbe stato meglio andare alla scuola domenicale e in chiesa. Magari la signora Linda era troppo autoritaria, ma c'era sempre una scatola di biscotti nell'armadio della sua cucina e lei non era spilorcia. In quel momento inadatto, Davy ricordò che quando aveva fatto uno strappo ai pantaloni nuovi la settimana precedente, la signora Linde li aveva rammendati in maniera stupenda e non ne aveva fatto parola con Marilla. Ma la coppa di iniquità di Davy non era ancora colma. Il ragazzino doveva imparare a proprie spese che un peccato ne richiede un altro per essere coperto. Quel giorno pranzavano con la signora Linde e la prima cosa che lei gli domandò fu: «C'erano tutti oggi in classe tua, alla scuola domenicale?» «Sì, signora», deglutì Davy, «c'erano tutti, meno uno». «Hai recitato il brano del libro d'oro e il catechismo?» «Sì». «Hai messo le monete nel cesto delle elemosine?» «Sì». «C'era in chiesa il signor Malcolm MacPherson?» «Non lo so». Questo perlomeno era la pura verità, sebbene facesse sentire in colpa il ragazzo. È stata annunciata la riunione delle dame di carità per la prossima settimana? Sì, signora, bisbigliò con un tremito. C'è stato l'incontro di preghiera? Io non lo so. Dovresti saperlo. Dovresti anche prestare più attenzione agli annunci. Quale brano ha letto il signor Harvey? Davy sorbì frenetico un sorso d'acqua e lo ingoiò insieme all'ultimo grido di protesta della propria coscienza. Recitò quindi fluentemente un brano dal libro d'oro che aveva imparato alcune settimane prima. Per fortuna la signora Linda smise di interrogarlo, ma Davy non gustò il pasto. Non ebbe nemmeno la forza di servirsi di una seconda porzione di budino. Ti senti bene? Domandò giustamente sbalordita la signora Linde. Hai male da qualche parte? No, borbottò il bambino. Sei pallido? Faresti meglio stare all'ombra oggi, lo mise in guardia la signora. Hai contato quante bugie hai detto alla signora Linde? Lo accusò Dora quando furono soli. Davy, ridotto alla disperazione, si girò con aria battagliera. Non lo so e me ne faccio un baffo, disse. Chiudi il becco, signorina Dora Keith. Poi il povero Davy si ritirò in un cantuccio dietro una catasta di legna a meditare sui propri misfatti. Green Gables era avvolta nell'ombra e nel silenzio quando Anna ritornò a casa. Si recò subito a letto perché si sentiva molto stanca e assonnata. C'erano state alcune feste movimentate ad Avonlea la settimana precedente ed erano durate parecchio. Aveva appena posato la testa sul cuscino ed era già quasi addormentata quando la porta si aprì senza rumore e una vocina implorante chiamò Anna. Anna si alzò a sedere, con aria sonnolenta. Davy? Sei tu? Che è successo? Una figurina bianca scivolò sul pavimento e saltò sul letto. Anna! Singhiozzò Davy buttandole le braccia al collo. Sono terribilmente contento che tu sia tornata. Sarei morto se non l'avessi detto a qualcuno. Dire a qualcuno che cosa? Quanto sono infelice. Perché sei infelice, micino? Perché sono stato troppo cattivo stamane. Oh, sono stato più cattivo di quando sono stato più cattivo fino ad oggi. E che cosa hai fatto? Oh, come mi sento infelice a dirtelo. Non ti piacerò mai più ora, Anna. Non potrai mai dire le mie preghiere stasera. Non posso dire a Dio quel che ho fatto. Morirei di vergogna se lui venisse a saperlo. Oh, beh, ma in ogni caso lui lo sa già. Proprio quello che ha detto Dora. Ma io pensavo che lui potesse essersi distratto proprio in quel momento. Ogni modo, lo dirò prima a te. Che cosa hai fatto? Lo disse d'un fiato. Sono corso via dalla scuola domenicale, sono andato a pescare con i Cotton e ho detto un sacco di panzane alla signora Linde, o più di una dozzina, e ho detto una parolaccia, una cosa molto simile a una parolaccia in ogni caso, e ho nominato il nome di Dio invano. Seguì il silenzio. Davy non sapeva come comportarsi. Anna era rimasta così sconvolta da non poter spiccicare parola. Anna, che cosa mi farai? Sussurrò. Niente, caro. Sei già stato punito abbastanza, mi pare. No, nessuno mi ha fatto niente. Ti sei sentito infelice fin da quando hai iniziato, non è vero? Puoi ben dirlo, esclamò il bambino enfatico. Era la tua coscienza a punirti, Davy. Che cos'è la mia coscienza? Voglio saperlo. È qualcosa dentro di te, Davy, che ti dice quando sbagli e ti rende infelice se persisti nell'errore. Non l'hai mai avvertita? Sì, ma non sapevo che cos'era. Vorrei non averla, mi divertirei un sacco di più. Dove si trova la mia coscienza, Anna? Voglio saperlo. Nel mio stomaco? Oh no, nel tuo spirito, rispose Anna, grata del buio, dal momento che la gravità dell'argomento richiedeva una seria trattazione. E suppongo che ora non potrò più liberarmene, sospirò il ragazzo. Ne parlerai a Marile e alla signora Linde al posto mio, Anna? No, caro, non ne parlerò ad anima viva. Ti spiace di essere stato cattivo, non è vero? E come? E pensi di non farlo mai più? No, ma si cautelò Davy, potrei fare il cattivo in un altro modo. Non dirai più parolacce, non scapperai più in giro la domenica e non dirai più bugie per coprire i tuoi peccati? No, non ne vale la pena, disse Davy. Bene, Davy, allora confessa solo a Dio il tuo pentimento e lui ti perdonerà. E tu, Anna, tu mi perdoni? Sì, caro. Allora, si rallegrò Davy, non mi importa se Dio lo farà o no. Davy! E va bene, stai tranquilla, gli chiederò di perdonarmi, disse Davy in fretta, sgusciando fuori dal letto, convinto dal tono di Anna di aver detto qualcosa di terribile. Non mi spiace chiederglielo, Anna. Per favore, Dio, sono terribilmente dispiaciuto di essermi comportato male oggi e cercherò di essere buono tutte le domeniche, sempre. E perciò, per favore, perdonami. Ecco fatto, Anna. Bene, ora corri a letto da bravo bambino. Ok, sai, non mi sento più infelice, anzi, buonanotte. Buonanotte. Anna sprofondò nei cuscini con un sospiro di sollievo. Oh, che sonno che aveva! E dopo un secondo, Anna. Davy era tornato indietro ed era accanto al suo letto. Lei si sforzò di tenere gli occhi aperti. Che c'è ora, caro? Domandò, cercando di escludere dalla propria voce ogni nota di impazienza. Anna, hai mai notato come sputa bene il signor Harrison? Pensi che se mi esercito molto potrò imparare a sputare come lui? Anna balzò a sedere. Davy Keith, disse, corri nel tuo letto e non costringermi a buttarti fuori dal mio un'altra volta. E Davy se ne andò senza discutere.